Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Rieccoci, bentornati e buona domenica alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Oggi alla finestra sul cortile parleremo di America, di Stati Uniti d'America e di sogno americano. Per generazioni di emigranti di tutte le nazionalità, ma anche di studiosi, di artisti, di scienziati, di registi, gli States hanno rappresentato e in parte rappresentano ancora la Land of Opportunities, la terra promessa delle grandi speranze, dell'affermazione individuale, del merito, della mobilità sociale. Il paese dove il figlio di un povero immigrato del Kenya può diventare presidente degli Stati Uniti, ma dove anche, per esempio, il figlio di un pastore dell'Armenia può diventare un grande pittore. Ed è anche la Mecca del cinema, la patria di Hollywood e degli Oscar. Ma quanto questo miraggio corrisponde ancora alla realtà? E quanto invece l'America di oggi tende a chiudersi in se stessa e a celebrare le sue glorie e i suoi rituali trascurando il resto del mondo? Di questo ed altro parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma ascoltiamo intanto cosa prevede il nostro sommario. America. Le nomination agli Oscar? Secondo il critico Pilger, una parata di propaganda, stereotipi e disonestà. Argentina. Visti dagli altri. Andrea Camilleri in Sud America con Montalbano. Inghilterra. Una retrospettiva svela l'arte misteriosa di Arshile Gorky, il Picasso armeno. Germania. Maschio per un giorno. Un artista berlinese insegna alle donne a travestirsi da uomini per vedere l'effetto che fa. Francia. Meno fatica, più visibilità. Ecco perché i social network mandano in pensione i blog. Sono un soldato americano! Ha una pistola! È il primo giorno. Perché non te la prendi con calma, amico? È pazzo da legare. È un incosciente. Lavoro per una società che mi noleggia dei codardi che non hanno il coraggio di fare licenziamenti, e per un valido motivo. Perché la gente è da fuori di testa quando viene licenziata. Signore e signori, non siete più in Kansas. Siete su Pandora. Dovreste vedere le vostre facce. Qui c'è una popolazione indigena, i Navi. Oggi inizia una nuova era per il Sudafrica. Mandela assume la presidenza e con essa l'arduo compito di conciliare le aspirazioni dei neri con le paure dei bianchi. Tutti i bianchi tifano per il Sudafrica. Tutti i neri tifano per l'Inghilterra. Questo deve cambiare. And the Oscar goes to... Nel trailer che avete ascoltato, alcuni brani dei film candidati alle nomination per gli Oscar 2010, tra cui Avatar, Invictus, Tra le nuvole, The Hurt Locker, e poi la voce della nostra Sofia Loren. Si avvicina appunto la notte degli Oscar, domenica 7 marzo, e come tutti gli anni si riaccendono insieme ai riflettori di Hollywood le solite polemiche sul premio più ambito del mondo del cinema. A ricevere le statuette saranno davvero i film, i registi, gli attori e le attrici più bravi del mondo e del momento, o prevarranno ancora una volta altre logiche? Beh, ad aprire il fuoco è un articolo molto polemico, molto duro, sul New Statesman, un settimanale britannico di orientamento laburista, firmato da John Pilger, che è un reporter, critico e documentarista australiano, che tra l'altro è stato in Vietnam, e quindi questo articolo esprime tutte le sue perplessità su quella che è la retorica che a suo avviso traspare dalla maggior parte dei film più accreditati per gli Oscar di quest'anno e che, secondo Pilger, conterrebbero insomma un messaggio fortemente nazionalista e propagandistico. Dice in pratica che le nomination del 2010 saranno una parata di propaganda americana. Si comincia con The Hurt Locker di Kathryn Bigelow, in cui la guerra dell'Iraq, secondo Pilger, non è descritta in termini realistici, ma ancora una volta con un messaggio favorevole dopo tutto all'intervento americano. Ma perfino Avatar di James Cameron, secondo il giornalista australiano, sconterrebbe dei messaggi di tipo, insomma, nazionalista, in cui c'è la figura del sergente Jack Sully, soldato americano, che salva questo popolo dei navi, e perfino Invictus di Clint Eastwood. Insomma, ce n'è per tutti, e diciamo un pezzo veramente di una critica devastante. Ma intanto diamo il benvenuto al nostro ospite, che ringraziamo di essere qui con noi questa mattina, Paolo Virzì. Salve. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno, grazie. E voi tutti conoscete Paolo Virzì, regista di film celebri come, ricordiamo, Ovo Sodo, Io Napoleone, Tutta la vita davanti. Il sta avendo molto successo di pubblico e di critica in questi giorni. La prima cosa bella che è uscito nelle sale il 15 di gennaio. Virzì, cosa ne dice? Questo, ovviamente, questo è proprio un'analisi molto in chiave anti-americana, a noi pare abbastanza ingenerosa, non so come la vede lei. Sicuramente è molto interessante l'articolo, se la Verve polemica anche con cui è scritto, mi sembrerebbe un pochino, insomma, ma che ha un po' estremizzato il discorso, perché è vero che il premio Oscar è innanzitutto una grande celebrazione dell'industria cinematografica americana, insomma l'industria celebra se stessa, ed è vero anche che gli Stati Uniti sono un paese nel che hanno affidato molto della loro identità al cinema, e quindi anche in qualche maniera, a volte anche con la retorica, insomma, con una retorica nazionale. Pensiamo dire che proprio perché è un'industria molto viva riesce anche a far convivere voci con controverse, ecco, questa è la loro forza. E direi, insomma, se pensiamo appunto a non so, Apocalypse Now, a quanti film, insomma, appunto, hanno la storia del cinema americano, ce ne sono tanti di esempi così. Ma Un Soldato Blu, non so, nomination come Best Picture dell'Oscar del 2010, ci sono, insomma, cioè un film triste, buffo, dei Coen come Serious Man, cioè, certo, in fondo Up in the Air è un ritratto di un'America che va male, di un'America dove si licenzia, dove si perde il lavoro, c'è spazio per un romantico e acuto film britannico come In Education. È vero che Avatar ha tutte e due le facce, spesso questa è una caratteristica, molto una prerogativa del cinema americano, cioè di raccontare il male e il bene all'interno dello stesso film, per cui l'America vista come civiltà che invade, che è violenta, e allo stesso tempo però che sa avere le risorse per portare la salvezza. Tutta l'epopea del West, dopo tutto, era in questa chiave, no? Certo, non proprio quelle di John Wayne, che invece erano più reazionarie, diciamo dagli anni 60 in poi, da Soldato Blu, insomma da Piccolo Grande Uomo in poi, c'è un tentativo di far convivere le ragioni e i torti, ecco, della loro storia. Parliamo per un attimo di Up in the Air, perché mi veniva in mente il suo Tutta la vita davanti, in cui lei ha affrontato il problema per l'appunto del lavoro, della perdita del lavoro, della precarietà, no? Anche questo è un film. Da noi è per l'appunto una novità il fatto che vi sia un universo, un orizzonte lavorativo senza tutele, invece per gli Stati Uniti è purtroppo una vecchia conoscenza il problema della precarietà, la vicenda appunto della persona che improvvisamente si ritrova da un giorno all'altro a perdere tutto, la casa, la security, la sanità, la scuola, eccetera, del figlio, quella è proprio una cosa molto che loro conoscono bene, adesso stiamo cominciando a conoscerla anche noi da qualche anno. In questo film loro hanno cercato di raccontarlo in maniera anche comica per certi versi. Sì, perché c'è questo George Clooney che va in giro licenziando la gente e accumula le miglia, no? E in questo si paga le vacanze. Tagliatore di teste professionista, le prese poi con in fondo una vita anaffettiva e con una resa dei conti della sua esistenza nel momento in cui si rende conto che anche lui può da un momento all'altro diventare, ecco, mi ricorda un pochino anche un certo film francese, che si chiamava Risorse Umane, è un tema evidentemente del nostro tempo, e loro lo hanno certamente messo la cosa che in un film europeo non ci sarebbe, cioè un momento di grande celebrazione dei buoni sentimenti nella conclusione del film, però è anche un film molto, per certi versi, anche aspro. C'è un candore, ecco, la verità è che gli americani quando raccontano queste vicende hanno un candore, ecco, probabilmente nel bene, nel male che noi non abbiamo, cioè mancano della malizia degli europei e la loro forza, tant'è vero che questa cosa si adegua bene al loro cinema, però allo stesso tempo possono suonare anche molto ingenui al nostro sguardo. Infatti sono meno pessimisti, diciamo. Prende in giro di Reitman quando dice, quando Reitman racconta con entusiasmo il fatto che hanno filmato dei veri licenziati che avevano veramente perso il lavoro ed era, e lui insomma era entusiasta dell'efficacia realistica di questa ripresa, e John Pilger gli commenta: wow, what a winner. What a winner. Bene, noi ringraziamo Paolo Virzì, allora auguri per tutto, in bocca grazie, al lupo grazie. E buona domenica, arrivederci, a presto, arrivederci. Visti dagli altri. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. La nostra rubrica settimanale sugli italiani eccellenti che si fanno valere all'estero va questa settimana, ci porta in Argentina, sulle colonne della Nación. Graciela Melgarejo parla del nostro Andrea Camilleri, di cui è appena stato pubblicato nel paese sudamericano Ardores de Agosto, La vampa di Ferragosto. È un romanzo, scrive la giornalista della Nación, in cui il protagonista, il commissario Montalbano, incomincia ad invecchiare e soprattutto a constatare con tristezza che anche i più onesti possono ingannare. Scrive ancora la Melgarejo sulla Nación che, come nei romanzi di Sciascia, il vero protagonista è la Sicilia. La Sicilia ovviamente dipinta non a tinte rose, con buona pace dell'assessore alla formazione siciliano Mario Centorrino, che vorrebbe non si leggessero più né Sciascia né Camilleri. In realtà il nostro Camilleri continua ad avere successo, e come italiani non dovremmo forse essere orgogliosi? La finestra sul cortile. Arshail Gorky, chi era costui? C'è una mostra che si è aperta il 10 febbraio alla Tate Modern di Londra, che durerà fino al 3 maggio e che è dedicata appunto a questo grande artista, che però è poco conosciuto ancora in Europa, ha avuto una grande fortuna in America, ma da noi rimane ancora misterioso, tant'è vero che il Guardian dedica proprio un lungo articolo di William Fever dal titolo The Mysterious Art of Arshail Gorky, che in realtà si chiamava Vozdanig Adoyan ed era nato probabilmente nel 1904 o forse nel 1902, non è ben chiaro, in Armenia, in un paese ai confini con la Turchia, e aveva avuto una vita avventurosissima, aveva perso la madre durante il genocidio degli armeni, era morta di stenti e di fame, e poi aveva raggiunto il padre negli Stati Uniti e lì aveva avuto fortuna come artista, tanto da affermarsi sulla scena artistica americana come uno dei più grandi artisti del Novecento, surclassato poi da Jackson Pollock, tant'è vero che l'articolo di William Fever racconta di questa rivalità tra Pollock e Gorky, che si concluse anche in maniera clamorosa con una lite pubblica, anche se durante questa lite il timido Arshail Gorky rimase freddo mentre il suo rivale dava in smanie. Ma purtroppo poi Arshail Gorky si suicidò all'età di forse 44 o 46 anni, quindi quindi morì in circostanze drammatiche, e anche queste avvolte in parte dal mistero, benché fosse malato di cancro, insomma, certamente forse anche logorato dall'ingratitudine forse della scena artistica americana, che tanto gli aveva promesso e poi a un certo punto lo aveva deluso e respinto. Ma intanto abbiamo al telefono un ospite che siamo particolarmente lieti di ospitare qui alla finestra sul cortile, Matthew Spender. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno. Chiamiamolo Matteo perché vive da molti anni in Italia, per la precisione nel Chianti, è figlio del poeta Steven Spender, artista anche lui, tant'è vero che sono sue quelle sculture che ricorderete sulla scena di Io ballo da sola, il film di Bernardo Bertolucci, e oltre a questo è il genero di Arshail Gorky, nel senso che ha sposato la figlia Maro Gorky, e proprio ad Arshail Gorky ha dedicato un libro che tra poco verrà pubblicato in italiano con il titolo Una storia armena, vita di Arshail Gorky. Il titolo originale inglese era From a High Place. Perché From a High Place, Matteo? From a High Place è un titolo degli ultimi quadri di Gorky, quindi c'era questo aspetto qui, poi c'era anche il fatto che Armenia è un altopiano, sì. Sì. È altopiano, estremamente alto, mi pare 2 chilometri di altezza, non lo so. Poi From a High Place, essendo parte della famiglia da quasi 50 anni, guardiamo in su quando pensiamo a Gorky, perché sta sulla nuvola bianca, che sì, come... è l'apoteosi di tutti gli artisti, o almeno la speranza di tutti gli artisti. Ecco, ma in questo lei è stato recentemente a Londra e quindi ha visitato questa mostra della Tate Modern. Sì, inizia a Filadelfia e ora si trova a Londra e poi andrà a Los Angeles. Un grande impegno della parte della famiglia per sostenere questa iniziativa, che ha preso spunto da Michael Taylor, che è uno dei direttori curatori del Museo di Filadelfia. E ci è voluto quasi 5 anni a mettere tutto insieme, perché il grande problema di mostre oggi è di assicurazione, chiedere il permesso di prestiti e tutto il resto. Quindi privati non possono più fare queste cose, devono essere fatti da musei, ma quello dipende sull'iniziativa dei curatori. Quindi è un colpo di fortuna che Michael Taylor adora Gorky, c'ha questo quadro, 2 quadri molto belli lì nel Museo di Filadelfia, quindi voleva consolidare una mostra dedicata a lui. Ecco, abbiamo purtroppo pochissimi minuti per raccontare una personalità così complessa, così straordinaria, così misteriosa come quella di Gorky, ma a chi possiamo paragonarlo come artista? Il Picasso armeno, il Kandinsky armeno, cosa possiamo dire? No, non lo so. Era un uomo molto camuffato, perché l'ultima cosa che lui desiderava era di appartenere alla categoria di poveri armeni, stenti di fame, eccetera. Era un uomo molto fiero e quindi durante la sua vita si è molto protetto contro questo tipo di compassione, cambiando il nome, fingendo di essere russo, dipingendo in un modo, devo dire, molto diverso di qualsiasi altra artista armena, e quindi simultaneamente è un uomo molto amato dal popolo armeno, tanto è vero che alla presentazione al Tate Modern c'era il presidente della Repubblica Armena, c'era anche il capo spirituale della Chiesa Armena. Giustamente. Questo non si va, insomma, due personaggi estremamente importanti sia per la Repubblica che per anche gli armeni della diaspora, e ha assimilato, per così dire, nell'identità armena in un modo molto forte, ma allo stesso tempo c'è questo problema che lui non diceva mai nella sua vita che fosse stato armeno, che veniva da questa esperienza del genocidio. Ecco, invece non è venuto l'ambasciatore turco. Riccardo, vuoi scherzare? Ecco, bene, e noi su questo punto ci dobbiamo lasciare. Invitiamo tutti ad andare a vedere questa straordinaria mostra per scoprire un grande artista del Novecento alla Tate Modern di Londra, fino al 3 di maggio. Intanto ringraziamo Matthew Spender, buona domenica e a presto. Arrivederci. E andiamo in Germania, sulle pagine dello Spiegel, precisamente a Berlino, dove ancora, benché il carnevale sia finito, c'è chi non smette di travestirsi. Per esempio un artista berlinese, Diane Thor, che da anni organizza seminari per sole donne con lo scopo di trasformare le proprie alunne in uomini per un giorno. Vestiti, trucco, portamento e linguaggio. Nulla viene lasciato al caso per rendere l'esperienza del cambiamento il più realistica possibile, insegnare alle alunne cosa significhi davvero pensare e agire da maschio. I motivi per cui i corsi della Thor ottengono così tanto successo sono molti. Certo, non mancano donne incerte sulla propria sessualità. La maggior parte delle apprendiste maschietto però vuole semplicemente trascorrere qualche ora comportandosi come difficilmente sarebbe concesso a una signora. Alcune tuttavia hanno delle ragioni più pratiche. Comprare un'auto, ad esempio, spiega la Thor sul suo sito internet, mentre una donna che vuole acquistare una quattro ruote raramente è presa sul serio, entrare dal concessionario indossando i pantaloni sembra predisporre il venditore a trattare con molta più serietà il cliente. E ci spostiamo in Francia, sulle pagine del settimanale Les Inrecuptibles si parla di un fenomeno nuovo che sta verificandosi sul web, e cioè il fatto che i blog stanno lentamente perdendo terreno a vantaggio dei social networks, in particolare di Facebook, soprattutto tra i giovanissimi 12-17 anni. E la ragione è molto semplice, spiega l'articolo dell'Les Inrecuptibles francese. Il fatto che quando tu vuoi crearti una tua comunità con un tuo blog devi partire praticamente da zero, mentre invece su Facebook gli amici ti vengono incontro e si moltiplicano all'infinito. Ma in un modo o nell'altro siamo sempre più soli. E per oggi è tutto, ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Filippo Aureggi in regia e vi do appuntamento a domenica prossima, stessa ora. Scrivete le vostre mail alla finestra sul cortile @radio24.it, segnalando anche casi di italiani che si fanno onore all'estero. Grazie a tutti, buona domenica da Riccardo Chiaberge.